in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei giornali, oggi veramente densi, pieni di notizie, pieni di approfondimenti, quindi come sempre vi consiglio di comprarne uno o più di uno oggi che abbiamo magari un pochino più di tempo per leggerli. Cominciamo dal Corriere della Sera che titola su quello che è successo ieri a Siena, il titolo è strappo al vertice di MPS, Monte dei Paschi di Siena per l'appunto, i manager sono stati bocciati nel senso che la proposta di aumento di capitale è stata fatta rinviare dai vertici invece della fondazione. Quindi il commento di Fabio Tamburini, il carattere dei duellanti che sono appunto Antonella Mansi che guida la fondazione Monte dei Paschi di Siena e il presidente Alessandro Profumo che ha già, alcuni dicono già pronto a lasciare, lui ha risposto lasciare vedremo. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche la fotonotizia che è dedicata a Caterina, avete sentito nel GR la vicenda di questa ragazza che studia, Caterina Simonsen, che studia veterinaria però allo stesso tempo è anche viva, come racconta lei stessa, grazie all'uso di farmaci che sono stati sperimentati sugli animali, perché per ora ci ha spiegato lei, ma sostengono in tantissimi, anche se c'è chi sostiene il contrario, per ora è l'unico modo per sperimentare i farmaci e quindi appunto lei convinta animalista. La fotografia la ritrae insieme al suo criceto, è però anche pro sperimentazione sugli animali, finché appunto non si troverà un modo migliore. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche la rubrica di Aldo Grasso, il non medico grida il complotto, non medico naturalmente Davide Vannoni, il presidente della Fondazione Stamina, e gioca sulla pelle dei suoi malati. Non ve lo leggo perché su questo tema ho trovato anche altri commenti, forse ancora più calzanti su altri giornali, come poi vedremo. La prima pagina della Repubblica invece ha un titolo diverso, Letta sia al confronto sul governo. Per quanto riguarda il rimpasto c'è stata una replica perché Renzi ha detto di non volere un rimpasto, come vedremo in un'intervista che ha concesso alla stampa, ha detto che la parola gli fa persino impressione, e poi c'è un'intervista che Repubblica ha all'ex premier Mauro Monti che la cosa più interessante secondo Repubblica che rivela in questa intervista, senza di me Berlusconi sarebbe al Quirinale. Vi segnalo dalla prima pagina di Repubblica anche naturalmente la notizia su MPS con un commento, con un articolo di Andrea Greco che era presente a Siena e che raccoglie lo sfogo di Profumo, che delusione, dovrei dirvi addio, ma vedremo appunto se poi Profumo veramente addio dirà. Dalla prima pagina di Repubblica un altro approfondimento sulla vicenda di Caterina Simonsen con un'analisi di Vito Mancuso. Vi leggo le prime, sapete, teologo e commentatore di Repubblica, vi leggo le prime righe, poi l'articolo continua a pagina 26 e ci sono altri approfondimenti su questa vicenda, pagina 22-23 di Repubblica. Caterina Simonsen, studentessa di veterinaria all'Università di Bologna, da tempo seriamente malata, qualche giorno fa su Facebook ha scritto così a favore della sperimentazione animale. Ho 25 anni grazie alla vera ricerca che include la sperimentazione animale. Senza la ricerca sarei morta a 9 anni. Ha aggiunto di studiare veterinaria per salvare gli animali, di essere vegetariana e nel suo profilo mostra una foto che la ritrae mentre bacia il suo criceto di nome Illy. E poi appunto si commenta soprattutto queste confessioni, questo manifesto personale di Caterina Simonsen e le reazioni scomposte che ha suscitato su Facebook, come vedremo poi sulla prima pagina della Stampa con il commento di Massimo Gramellini. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore che si concentra sulle nuove tasse del 2014 con un'analisi di Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, che si intitola La lunga strada del fisco leggero. Tasi, Tari e IRPEF sulle case sfitte, però ci sarà oltre 1 miliardo dal risparmio. Nella legge di stabilità, quindi si cerca di analizzare questa legge di stabilità e il mille proroghe dal punto di vista soprattutto delle tasse, che è sicuramente uno dei temi che più ci tocca e più ci interessa a tutti, scrive il Sole 24 Ore, nella legge di stabilità i rincari di prelievo per i cittadini e le imprese superano i tagli di oltre 2 miliardi. E vedremo poi che all'interno c'è anche proprio un elenco ragionatissimo di tutte le nuove tasse che ci aspettano con il nuovo anno. Naturalmente anche la notizia del Monte Paschi, rinvia l'aumento, Profumo, la citazione delle parole di Profumo, dimettermi, deciderò a gennaio. E poi l'analisi di Marco Onado, Siena deve uscire dall'incertezza. Come sempre alla domenica c'è la lettera risparmiatore di Vittorio Carlini, l'approfondimento su un singolo titolo quotato della Borsa di Milano. Questa settimana è BS. Il titolo BS accelera sulla redditività. Nel 2014 la sfida è spingere i ricavi. BS è un'azienda che è specializzata in progettazione e produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di legno, vetro e pietra. Sapete che questa, quella delle macchine appunto per della meccanica, è uno dei settori in cui siamo più forti in Italia. Ma veniamo alla prima pagina della Stampa. Qui, come vi dicevo, il titolo è anche in questo caso, come per Repubblica, tutto politico. Renzi gela Letta e Alfano, niente in comune con loro, ma questo appunto è perché la Stampa, grazie a Federico Geremicca, ha un'intervista a Matteo Renzi, segretario del PD, di cui poi vi leggerò alcune parti. Ma vi dicevo il buongiorno di Massimo Gramellini. Caterina è viva, ve lo leggo. Per aver affermato di essere ancora viva grazie alla ricerca scientifica, che include purtroppo la sperimentazione sugli animali, una ragazza padovana affetta da malattie rarissime è stata lapidata virtualmente in rete dagli integralisti. Giovanna: puoi morire pure domani, per te non sacrificherei il mio pesce rosso. Valentina: se crepavi da bambina non fregava niente a nessuno. Perry: magari tu fossi già morta, un essere vivente, forse voleva dire umano, precisa Gramellini, di meno e più animali su questo pianeta. La lapidata, che si chiama Caterina e per ironia della storia studia veterinaria, ha risposto ai messaggi di morte con un video pacato e commovente, commovente perché pacato, in cui parla da dietro una maschera, seduta accanto alle medicine che le consentono di sopravvivere. Caterina spiega come il suo animalismo convinto, è contraria a caccia, macelli e pellicce, si fermi davanti alla sperimentazione, finché non esisteranno alternative altrettanto efficaci. Non entro nel merito di una querela che sembra fatta apposta per animare una di quelle discussioni tra sordi in cui eccelle il nostro dibattito pubblico, dove ciascuno agita in faccia alla controparte le sue certezze senza mai lasciarsi sfiorare dal dubbio, dall'ascolto, dall'autoironia. Ma non accetto che per difendere gli animali si debba diventare disumani. L'amore che si nutre di odio avvilisce sempre le proprie ragioni. I sentimenti, come l'architettura, sono una questione di prospettiva. Se Giovanni, Valentina e Perry guardassero per un attimo la vita con gli occhi di Caterina, le chiederebbero scusa. E questo era il buongiorno di Massimo Gramellini, appunto sulla vicenda della giovane di 25 anni che difende la sperimentazione animale e che è stata attaccata su Facebook per questo. Ma a proposito di non ascoltarsi o comunque di posizioni troppo intransigenti, vi segnalo l'editoriale di Mario Calabresi, editore, direttore della Stampa, sul caso Stamina. Il coraggio di fidarsi dei competenti. Vi leggo le prime righe, anche perché anche in questo caso avete, appunto, vi citavo anche la rubrica di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Anche in questo caso ne abbiamo parlato tanto, è una questione molto delicata, ma su cui forse vale la pena di cercare di sforzarsi di mettere alcuni punti fermi, soprattutto dal punto di vista scientifico, che è quello che cerca di fare Calabresi. Vi leggo le prime righe. Ogni giorno che passa la storia del metodo Stamina si fa sempre più inquietante. Non solo per il retroscena che ormai da 10 giorni vi raccontiamo e che mostrano un'idea della medicina molto più simile all'azzardo che alla scienza, ma anche per il livello a cui è scaduto il dibattito pubblico italiano. L'ultima parola, anche quando si tratta di decidere se una cura è efficace o inutile o pericolosa, sembra dover spettare non ai ricercatori e ai medici, ma all'uomo della strada e ai giudici. Ognuno pensa di poter dire la sua e il fin troppo noto TAR del Lazio ormai stabilisce chi e come si debba curare e anche la composizione, in stile manuale Cencelli, delle commissioni scientifiche di valutazione. Sarebbe tempo che giornalisti, comici, intrattenitori televisivi, esperti improvvisati e giudici si facessero da parte per lasciar parlare chi ne ha conquistato il diritto con una vita di studio e di risultati tangibili. Da parte nostra possiamo solo continuare a raccontare tutto quello che finora è stato nascosto e dare voce alle persone più serie e credibili che ci sono in circolazione. È un lavoro delicato, da fare con il massimo dell'attenzione, che non solo ci mostra ancora una volta quanto i malati possano essere preda di personaggi senza scrupoli, ma è anche illuminante, come hanno spiegato il professor Orsini e la ricercatrice Elena Cattaneo, della confusione dell'Italia di oggi. Vi dicevo l'intervista a Matteo Renzi di Federico Geremicca, che occupa l'intera pagina 3 della Stampa. Vi leggo, è in realtà un colloquio, tant'è che non è fatta domanda e risposta, ma appunto con dei virgolettati. Il titolo è: con Letta e Alfano non ho niente in comune, mai fatto accordi con loro. E vi leggo un punto, uno di questi virgolettati di Renzi. Non posso accettare, dice Matteo Renzi, l'impostazione che Enrico Letta ha dato alla sua conferenza stampa di fine anno, quando ha detto che un salto generazionale è compiuto, facendo quasi immaginare un'intesa tra lui, Alfano e me. Le cose bisogna raccontarle per come stanno. Lui, Enrico, è stato portato al governo anni fa da D'Alema, che io ho combattuto e combatto in modo trasparente. E Angelino Alfano al governo ce l'ha messo Berlusconi, quando io non ero ancora nemmeno sindaco di Firenze. Chiuse le virgolette, poi vi leggo l'ultima parte. Calma ragazzi, sapesse quanti mi dicono Matteo bisogna andare subito al voto, io rispondo calma ragazzi, calma, bisogna tener fede a quanto detto, se Letta fa va avanti e continuo ostinatamente a credere che sia possibile. Certo, se si fanno marchette si passa alle larghe intese, dalle larghe intese all'assalto alla diligenza non va bene, e per fortuna che stavolta non l'ho detto io, visto che il primo critico in questa occasione è stato il capo dello Stato, e certo non si può accusare il presidente di essere un nemico del governo Letta. Vediamo, passiamo alla prima pagina del Messaggero, anche in questo caso focalizzato sugli aumenti e sulle tasse nuove del 2014. Da gennaio via i rincari per benzina, autostrade, luce, contributi di lavoratori e imprese. Costerà di più il caffè alle macchinette, l'abbiamo visto anche due giorni fa quando erano appunto trapelate le prime indiscrezioni sul mille proroghe. E nel privato le donne andranno in pensione a 63 anni e 9 mesi. La fotonotizia del Messaggero è l'unico giornale che utilizza questa fotonotizia. Notizia è dedicata alla Cina. Addio al figlio unico, stop ai campi di lavoro. Questa viene definita una svolta riformista del Congresso del Popolo. Vi segnalo poi la prima pagina del giornale. Alfano, ultima chiamata. Renzi fa capire che il governo ha i giorni contati. Adesso il vice premier ha l'occasione per riscattarsi. Se stacca lui la spina può rimediare al suo tradimento, altrimenti scomparirà come Fini. Questa è la previsione del giornale, che ospita anche come ogni domenica il commento di Giuliano Ferrara, le nove vite di Berlusconi e l'errore di crederlo finito, che continua poi a pagina 6. A prima pagina di Libero, le marchette di Renzi, che invece parlava proprio di marchette del PD, ma tant'è. Libero titola invece le marchette di Renzi. Nominato a Palazzo Chigi il vice di un suo fan club, il merito ha scritto la geografia del segretario. Abolita l'abolizione del finanziamento ai partiti, garantiti per decreto 60 milioni l'anno. E il commento del direttore Maurizio Belpietro, finché c'è Letta, la spending review è una barzelletta. E trovate poi gli approfondimenti a pagina 3 e poi ancora a pagina 4 e 5. La prima pagina dell'Unità, Letta ricomincia a ballare. E naturalmente abbiamo visto, insomma, la questione è questa, che Letta, il governo Letta viene incalzato da Renzi. Vi segnalo però dalla prima pagina dell'Unità un interessante intervento di Umberto Veronesi su quella che lui definisce la lezione uruguaiana, dove è stata legalizzata la marijuana. E qui bisogna fare molto attenzione ai termini, perché liberalizzata, purtroppo la marijuana è liberalizzata, tutti di fatto la possiamo comprare, legalizzarla è un'altra storia. Secondo Veronesi, oltre ai noti effetti terapeutici, legalizzare la marijuana è anche un modo per colpire la criminalità organizzata. Ci sentiamo subito dopo le informazioni sul meteo con le altre pagine dei quotidiani. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto titoli diversi, alcuni sulle novità del mille proroghe, ma molti altri sulla politica, su questo incoraggiamento di Renzi a Letta, chiamiamolo così, ma è un po' un eufemismo. Renzi infatti incalza Letta perché il nuovo segretario del PD vuole che ci sia un deciso cambio di rotta nel governo guidato dal premier Letta, e su questo titola anche il Manifesto con una parola sola: rimpastarellum. E il sommario: dopo la figuraccia del ritiro del Salva Roma, ricorderete il decreto ritirato alla vigilia di Natale perché oltre a salvare Roma conteneva talmente tanti piccoli provvedimenti particolari che tutelavano il particolare di qualcuno che il capo dello Stato ha imposto il ritiro di questo decreto. Ora il governo pensa a un rimpasto, roba da prima Repubblica, e anche Renzi, alla prova del dialogo con Landini, teme i danni per l'immagine del nuovo PD. L'unica via d'uscita: legge elettorale e ritorno alle urne, per questo appunto rimpastarellum. Ma vediamo la prima pagina di Avvenire, che abbiamo visto sul Messaggero la fotonotizia dedicata alla fine della politica del figlio unico in Cina. I cinesi infatti potranno avere due figli. Anche l'Avvenire titola su tutte le novità che sono venute dal Congresso del Popolo, cioè la riunione del mega governo di questo colosso ancora nominalmente comunista. Il governo vara un piano da realizzare entro il 2030. Sapete, i cinesi sono specializzati e e veramente li fanno questi piani e poi li seguono nel pianificare a lungo termine, quindi non come noi che pianifichiamo a vista, come abbiamo letto anche in tanti commenti nei giorni scorsi. Questo piano è appunto un piano che dovrebbe portare la Cina da qui al 2030. L'incognita dei costi ambientali, marcia indietro sulla politica del figlio unico, cambio di strategia sui campi di rieducazione. Ma il titolo in sé, questo che vi ho letto era l'occhiello, è la grande deportazione, perché infatti questo piano è un piano per portare 250 milioni di cinesi dalla campagna alle città. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo anche un intervento di Emma Bonino sull'Africa. L'Italia deve riaccendere i riflettori e lavorare per un impegno condiviso. E poi vedremo all'interno l'approfondimento soprattutto sulle crisi di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, le nuove crisi o rinnovate o su cui si sono riaccesi i riflettori appunto nel continente africano. La prima pagina del Fatto Quotidiano è dedicata a quello che potrebbe essere una riforma del diritto penale, perché c'è pronto questo disegno di legge governativo per limitare ancora la custodia cautelare. Il titolo, quindi, prima di arrestare qualcuno il giudice dovrà avvertirlo, quindi a decidere sulla custodia cautelare, se verrà approvato questo disegno di legge, non sarà più un GIP ma un collegio di 3 giudici che dovranno interrogare l'indagato prima di incarcerarlo. In tanti partiti vogliono impedire le manette per chi commette il suo primo delitto. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, abbiamo visto in questi giorni la Gazzetta dello Sport in assenza un po' di partite di Serie A ha fatto grandi interviste, abbiamo visto quella a Fabio Capello, CT della Russia, ex allenatore del Milan, del Milan, giusto? Ieri invece un'altra intervista che in questo momento non mi ricordo a chi fosse, oggi La fame di Conte, intervista al tecnico della Juventus premiato a Dubai, e dice Conte: scudetto, Europa League, Coppa Italia, voglio tutto, dobbiamo vincere all'estero e tornare ai vertici mondiali. Per me il calcio è passione, non sono d'accordo con chi dice che in questo sport è già stato inventato tutto. E intanto mi è venuto in mente a chi era l'intervista di ieri, era il CT della Nazionale Prandelli, che diceva: non siamo i più forti ma possiamo battere i più forti. Passiamo alle pagine interne, perché anche alle pagine interne La Stampa, che ha dedicato alla vicenda di Caterina il buongiorno, avete visto, l'abbiamo letto, di Massimo Gramellini. Anche a pagina 18 c'è poi tutta la cronaca di quello che è successo ieri, e poi un'intervista a Silvio Garattini, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri, che ieri tra l'altro avevamo letto una piccola parte del suo intervento sul Messaggero sulla questione Stamina. Oggi viene interpellato invece su questa vicenda di Caterina. Nelle sue parole c'è il coraggio di chi dice la verità. L'intolleranza, dice Garattini, è acuita dalla crisi. Infatti chiede Paolo Colonnello: perché secondo lei si arriva a forme di aggressività così violente come augurare la morte a una ragazza che ha l'unica colpa di credere nei farmaci che usa? E risponde Garattini: perché è gente con posizioni assolutiste, la stessa radice ideologica di chi si dice a favore di Stamina o di chi combatte con ferocia la TAV. Forme di intolleranza e aggressività acuite da una crisi che non è solo economica ma anche morale. Dalle altre pagine interne passiamo al Corriere della Sera, dove ho trovato un interessantissimo reportage, racconto di Antonio Ferrari, che è stato ad Auschwitz. Il titolo è Dormire una notte ad Auschwitz in compagnia delle anime morte. Venire qui e restare insonni è un omaggio alla memoria. Vi leggo le prime righe. Dalla finestra della stanza di Auschwitz, al primo piano dell'Hotel Galissia, civettano le luci appese a un albero che disegnano i contorni di due renne mentre traino una slitta senza guida e colma di doni immaginari. La radio alterna qualche pezzo metal con suadenti neni e natalizie che provocano vampate di melanconia. All'ingresso del ristorante dell'albergo annunciano fieramente il menù che era stato preparato in onore del presidente francese Jacques Chirac in visita nel 2005 e di quello polacco Bronislaw Komorowski, ospite pochi mesi fa. Sarà una suggestione oppure l'effetto perverso di un'improvvisa ipersensibilità olfattiva, perché non può che essere così. Tuttavia le narici sembrano infastidite da un odore penetrante, persistente e sgradevole che si diffonde nell'aria di sera, persino negli ultimi chilometri prima dell'arrivo. Un odore simile a quello della carne bruciata, che è stato descritto con puntigliosa potenza dai sopravvissuti che si sono salvati per caso nei campi di sterminio nazisti, a cominciare da Primo Levi. E tra l'altro all'interno di questo racconto c'è anche la segnalazione che sul sito del Corriere si può vedere anche un video reportage di questa notte appunto passata a Auschwitz da Antonio Ferrari. Dalla pagina interna del Corriere vi segnalo anche la vicenda raccontata da Michele Farina dei bambini boliviani che dicono lasciateci il lavoro minorile, sono contro l'abolizione voluta dal Parlamento e protestano questi piccoli minatori lustrascarpe perché naturalmente vietar loro di lavorare può apparire sacrosanto, però vuol dire anche che non possono contribuire al bilancio familiare. E il Corriere ci ricorda che la Bolivia è tra i paesi più poveri dell'America Latina, il PIL pro capite si aggira sui $2,000 all'anno, 2/3 della popolazione è composta da indios e la speranza di vita si ferma a 67 anni. È molto interessante questo reportage appunto di Michele Farina. Ma dalla copertina delle pagine di cultura del Corriere, poi vedremo invece il supplemento La Lettura quando passeremo ai supplementi della domenica, a cominciare dal domenicale del Sole 24 Ore, però all'interno c'è questo articolo di Telmo Pievani, Poeti e contabili, gli scienziati, è infatti una sorta di recensione di un libro dell'entomologo Eric Wilson, uno dei più famosi entomologi del secolo scorso, ma anche di questo secolo. È un libro pubblicato da Cortina, la sua ricetta. La ricerca, lavorate 60 ore a settimana e vi serve tanta fantasia, non 140 di quoziente di intelligenza. Quindi insomma, una visione di uno che sicuramente di ricerca nella sua vita ne ha fatta tantissima. Ma da pagina 37 vi segnalo un articolo di Danilo Taino, quella fatica da tasse che pesa sugli italiani. Abbiamo parlato di tasse e ne riparleremo tra poco tornando sul Sole 24 Ore. Scrive Taino, in vista dell'anno nuovo è gentile dare messaggi ottimisti. Cosa meglio delle tasse? Uno studio appena pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale indica che l'Italia è in massimi livelli di sforzo fiscale, quello che in inglese viene definito tax effort. La buona notizia potrebbe essere che spazi per aumentare il carico delle tasse non ce ne sono praticamente più. Lo studio calcola che se si fa uguale a 1 la capacità fiscale, tax capacity, cioè il massimo livello di entrate fiscali che un paese può ottenere, compresi i contributi sociali, lo sforzo fiscale italiano è 0,99. Siamo insomma al limite massimo. Naturalmente bisogna ricordare che lo sforzo fiscale è questo per chi le tasse le paga, poi in Italia c'è la piaga dell'evasione. Ma questo naturalmente Taino lo scrive nel suo pezzo. Ma vi dicevo, a proposito di tasse, vediamo i dati, perché questi erano dati riferiti al 2011, vediamo quelli del 2014. Saverio Fossati, in questa pagina, che è la pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi, nuove imposte e rincari, ecco le tasse 2014. Gli aumenti di prelievo a carico di cittadini e imprese superano le riduzioni di oltre 2 miliardi. E c'è l'elenco con le maggiori entrate, TASI, TARI, prodotti finanziari, ne abbiamo parlato anche ieri, salgono appunto sale la tassazione sui prodotti finanziari, pensioni d'oro, cosiddette pensioni d'oro, perché parliamo anche di pensioni che valgono 91.000 euro all'anno lordi, quindi vuol dire la metà netti, insomma forse le pensioni d'oro sono altre, ma comunque ci sono anche queste, riordino delle detrazioni, crediti d'imposta, web tax, IRAP, IRPEF su case sfitte e sugli acquisti immobiliari. A proposito di tasse, vi segnalo, aspettate, era dall'altra parte, no, ecco, l'altra cosa interessante, l'altro approfondimento, una pagina intera anche in questo caso del Sole 24 Ore, pagina 5, è sulle infrastrutture. Nel 2013, infatti, ci spiega Giorgio Santilli, a pagina 5 appunto del Sole 24 Ore, c'è stato un altro crollo del 16%, si parla spesso delle emergenze infrastrutture nel nostro paese, sono ancora o ferme o comunque non sufficienti, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, due giorni fa, con un articolo di Cati Mandurino che spiegava anche quanto costa ogni giorno non avere queste infrastrutture, perché per esempio bisogna fare strade più lunghe per trasportare le merci, ma gli esempi sono tantissimi. Ecco appunto Giorgio Santilli con i numeri ci spiega: inflessioni le grandi opere e nord-est, tengono nord-ovest e sud, in crescita le medie opere, ferrovie e autostrade, con tutti i dati. Il terzo inserto delle guide pratiche del Sole 24 Ore oggi in edicola, sempre sulla legge di stabilità, con un focus sulle pensioni e lavoro. E poi, visto che abbiamo parlato di tasse, la prima pagina di norme e tributi, la sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, il fisco all'esame della Consulta, perché la Corte Costituzionale deve anche decidere su alcune tasse. Nel 2014 saranno appunto decise controversie importanti in fatto di reclamo, indagini finanziarie e aggi. Sotto tiro l'imparzialità degli uffici e le contestazioni sui prelievi bancari dei professionisti. E poi c'è un elenco che comprende 13 voci sull'elenco delle controversie che dovranno essere controversie sulla legittimità di alcune tasse che pesano su noi italiani, che dovranno essere esaminate dalla Corte Costituzionale nel 2014. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo un approfondimento dal Cairo di Alberto Stabile: battaglia nel campus di Al-Azhar, scontri fra studenti filomorsi e polizia. C'è stato anche un edificio in fiamme, un morto e 100 arresti. Sapete che ieri si è un po' riacceso il faro sull'Africa, sul Nord Africa, perché c'è stata questa autobomba esplosa a Beirut che ha fatto molti morti, tra cui un ex ministro. Ma veniamo alle pagine interne della Stampa, dove c'è un altro approfondimento sull'Africa. Le guerre dell'Africa ora spaventano l'Occidente, soldati francesi in Mali e Centrafrica, americani in Sudan, mai così tanti fronti aperti. In queste due pagine Domenico Quirico, che sapete è un inviato della Stampa, che è stato anche rapito per molti mesi, conosce molto bene il continente africano, e una mappa che riassume le zone calde, che sono il Mali, la Nigeria, il Congo, il sud del Sudan e la Somalia in questo momento. Ma poi naturalmente sappiamo che, per esempio, come abbiamo visto su Repubblica, c'è anche l'Egitto e poi c'è anche il Libano per quanto riguarda il Medio Oriente. Lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, rieccoci per l'ultima parte della rassegna. Eravamo sulle pagine interne dei giornali e vi segnalo in particolare a pagina 30 e 31 della Stampa un approfondimento che è richiamato anche in prima pagina. E sapete che chi ha ascoltato lo speciale di Natale di Radio Tube con Marta Cagnola sa che sta per avvicinarsi questo anniversario dei 60 anni della RAI, che infatti iniziò le sue trasmissioni il 3 gennaio del 1954. E a questo anniversario la Stampa dedica due pagine. Rai compleanno di tutto di più, ma con sobrietà. Tanti programmi festeggeranno l'evento, poi mostre e Radio Corriere TV che va in rete. E c'è una curiosità con il palinsesto di quel 3 gennaio. Era un palinsesto che durava poco, la prima trasmissione era alle 11, l'ultima alle 23:15 e l'ultima era la domenica sportiva, che quindi è probabilmente la trasmissione più longeva, come ha ricordato anche Marta in quello speciale di Radio Tube, è la trasmissione più longeva della Rai. C'è il ricordo di Bruno Gambarotta, che oltre a essere un giornalista della Stampa è stato anche a lungo giornalista della Rai, e poi un'intervista a Leone, direttore di Rai 1, che dice: le sfide di oggi sono tecnologia e cultura, ma l'informazione resta il fiore all'occhiello. Veniamo alle pagine interne del Messaggero, perché qui ho trovato un interessantissimo reportage, un'inchiesta su quello che viene definito purtroppo il flop dello studio in carcere. Sapete che sono molti i giovanissimi che sono in carcere, si cerca di farli studiare. C'è per esempio Eraldo Affinati, che insegna tra l'altro in un carcere, e spiega che purtroppo quando poi dopo gli studi questi studenti carcerati fanno i loro esami, viene promosso solo il 42% dei detenuti iscritti ai corsi. È un flop, ma è una cosa su cui bisogna lavorare. Dalle pagine interne del Messaggero vi segnalo un approfondimento sulla vicenda che abbiamo visto ieri sulla prima pagina della Stampa, quella della nave rompighiacci, l'Academic Sholkhaski, che è bloccata dal PAC nell'Antartide. È arrivata una nave cinese per cercare di salvarla. Ora ci sono anche altre navi, perché per ora il salvataggio non è riuscito, e quindi il Messaggero prende questa notizia di cronaca anche per fare un excursus di tutte le spedizioni in Antartide, che appunto hanno dovuto scontrarsi con la forza di questa natura incredibile. Quindi, fallito il tentativo del rompighiaccio cinese di raggiungere la nave russa Academic Sholkhaski, bloccata nel PAC dell'Antartide con 62 persone. Ora ci proveranno i francesi e gli australiani. La spedizione seguiva la rotta del geologo inglese Mawson, rimasto anche lui intrappolato nel 1911. I naufraghi dell'Endurance nel 1915 vennero salvati solo dopo 2 mesi e mezzo. Ma vi segnalo da Libero, ma perché vi ho segnalato l'intervento di Umberto Veronesi sulla prima pagina dell'Unità, che plaude all'iniziativa della marijuana legalizzata in Uruguay, e invece il Libero racconta con uno certo spirito critico come invece negi Stati Uniti si siano stati aperti 3 coffee shop, cioè dei posti dove si può comprare liberamente la marijuana, e il titolo è: gli USA si fanno le canne, coffee shop in 3 stati, marijuana lecita in Colorado, Washington e California, permessa a scopo terapeutico in altri 16, Uruguay, Spagna e Olanda, dilaga il fumo libero. È appunto un articolo molto critico, però anche su questa questione forse dovremmo cercare tutti di mantenere una certa lucidità attività, perché da una parte la marijuana può essere usata a scopo terapeutico e dall'altra soprattutto c'è la questione appunto di tutti quegli economisti, e sono tanti ormai, che sostengono che legalizzare la marijuana e forse anche altre droghe sarebbe un colpo incredibile alla criminalità organizzata. Ci sarebbero anche tante altre segnalazioni, però mi preme passare ai supplementi culturali che escono di domenica e che sono così ricchi sempre, oggi sicuramente non fanno eccezione. Partiamo dalla domenica del Sole 24 Ore e partiamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che è sulla prima pagina. Oggi si intitola Congedo. Sapete che Ravasi sceglie una citazione da un libro e poi la commenta. La citazione, tratta da Detti e contraddetti di Karl Kraus, è questa: bisogna scrivere ogni volta come se si scrivesse per la prima volta e per l'ultima, dire quanto sarebbe giusto per un congedo e dirlo così bene come per un debutto. E scrive Ravasi: stiamo per congedarci dall'anno 2013, non archiviamolo come un relitto, ma trasformiamolo nella base per uno slancio verso il nuovo che ci attende. Custodiamo il bene e il male vissuto, considerandolo come un seme che ci aiuti a crescere e a sperare. È un po' questo l'appello che raccogliamo da uno dei detti e contraddetti di Karl Kraus che abbiamo appena citato. È suggestiva poi l'idea dell'unicità delle nostre azioni. Se avessimo un'unica occasione nella vita, ci penseremmo bene prima di sprecarla. Cerchiamo allora di considerare ogni parola o gesto come se fosse la prima realtà in assoluto destinata a spianarci la strada, o l'ultima che suggella un'intera esistenza. Leonardo da Vinci annotava: chi non stima la vita non la merita. E la copertina, però, il pezzo di apertura, è dedicato a uno dei classici della saggistica italiana, che è Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. In realtà il titolo è un po' un gioco di parole: Dei delitti e delle penne, perché Sergio Luzzatto ci racconta come l'opera più importante dell'illuminismo italiano compirà tra poco 250 anni e ci racconta come appunto a Cesare Beccaria andò tutta la fama, ma si trattò di un lavoro dell'equipe con i fratelli Verri. All'Accademia dei Pugni nacquero le idee e lo stile che rivoluzionarono il diritto penale, distinguendo il delitto dal peccato, il danno dalla colpa, la pena dall'espiazione. E sapete che una delle teorie più importanti di Cesare Beccaria è che non è tanto la pena, la grandezza della pena, la gravità della pena a spaventare e quindi a spaventare i criminali e quindi magari diminuire i crimini, ma è la certezza della pena. È così tanto, così spesso si evoca Cesare Beccaria quando si dice che il problema del diritto italiano è appunto che non c'è certezza della pena. E sulla giustizia ci sono tanti commenti anche oggi, per esempio su Libero c'è anche che non abbiamo tempo di leggere, ma c'è anche un approfondimento sulle lunghezze della giustizia che conosciamo, ma è pieno di numeri. Vi segnalo il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, dico nostro perché come sapete è il direttore del Sole 24 Ore ma anche di Radio 24, lo spesamento di un sud dalle mille pezze a colori. Roberto Napoletano ci racconta di una breve passeggiata che ha fatto dopo il pranzo di Natale a Napoli e nella sua terra di origine, e ci racconta come appunto il paesaggio sia cambiato. Vi segnalo, vi leggo le ultime righe. Sai, Tonino è il cognato con cui ha fatto questa passeggiata, le case basse e i terreni non mi parlano più, hanno perso armonia, è sparito il verde, non formano più una frase, dico. E gli risponde Tonino: qui non sono arrivati i grattacieli, ma tanti piccoli e grandi soprusi e tanti piccoli e grandi condoni, c'è uno stato di spaesamento. Come hai detto, Tonino, ho capito bene, spaesamento, sì, confusione, disordine, hai capito bene, è il risultato delle mille pezze a colori. E commenta alla fine Roberto Napoletano: le solite amare pezze a colori del mio sud di dentro. E su questi abusi del territorio, abusi edilizi, naturalmente abbiamo parlato tanto e non se ne parla forse mai abbastanza. Sappiamo anche quando poi ci sono fenomeni meteorologici improvvisi, come è successo in Sardegna di recente o in Liguria, naturalmente le conseguenze poi sono più gravi, proprio perché c'è stato uno sviluppo edilizio poco controllato, con pochissima visione e molti interessi particolari. Quindi al di là di come appare poi il sud, perché non c'è stato uno sviluppo controllato, ci sono poi tantissime altre conseguenze. E vi segnalo dalla pagina, visto che abbiamo parlato tanto di metodo stamina e di scienza, e a pagina 29 il pezzo di Gilberto Corbellini, Usi e abusi di coscienza, inganni e autoinganni compassionevoli. Nel nome di questioni eticamente sensibili, in Italia spesso giudici e politici autorizzano misfatti e azioni lesive della libertà personale, e si torna moderna, partendo da questo libro di Carlo Augusto Viano, La Scintilla di Caino, storia della coscienza e dei suoi usi, pubblicato da Bollati Bolinghieri e recensito da Corbellini, si torna a parlare anche appunto dello pseudo trattamento stamina che si appella a valori umanitari. E Gilberto Corbellini tocca questa questione, ma vi ricordo, lo ricordo sempre con piacere, che sì, la stampa ha fatto un grande lavoro su questa questione di stamina, gli ospedali di Brescia hanno finalmente pubblicato le cartelle cliniche da cui non emergerebbero miglioramenti per i pazienti che hanno fatto questo trattamento, ma sulla domenicale di 3 settimane fa già si parlava appunto di questa questione. Dalle pagine del domenicale che vengono definite da collezione vi segnalo una recensione di un libro secondo me splendido, che è La storia del mondo in 12 mappe, la fa Franco Farinelli, Il mappamondo racconta o no, e in una lettura, come giusto che sia, critica di questo libro, Farinelli ci spiega come questa storia globale di 12 rappresentazioni geografiche pone anche alcune interessanti questioni metodologiche non tutte superate, ma vi assicuro è un libro bellissimo. Passiamo alla lettura, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, e vi segnalo dalla pagina 2 e 3 un lungo articolo di Danilo Taino, Il fallimento è un diritto. In Europa il crack diventa una vergogna, al contrario ritenerlo un fatto normale aiuta lo sviluppo dello spirito di impresa. E appunto sapete che in America sono molto diversi i meccanismi del fallimento, si può anche dichiarare fallimento come persona, cioè quando appunto si dichiara bancarotta. In Italia spesso è un'infamia, anche con conseguenze sulla possibilità di ottenere ancora credito presso le banche, ma forse è proprio un'impostazione culturale sbagliata. Purtroppo veramente c'è pochissimo tempo, mi fa segno Carmelo dalla regia, che ringrazio anche per avermi dato i tempi giusti, però ho tempo ancora per segnalarvi la copertina della la Domenica della Repubblica, 1964, l'invenzione dei giovani. In quell'anno infatti esplosero i Beatles, ci fu il discorso di Martin Luther King, le prime proteste studentesche e l'esplosione della controcultura. Due i commenti, uno di Angelo Acquaro e uno di Michele Serra. Ma dalla Domenica della Repubblica vi segnalo anche un approfondimento, anche in questo caso se ne è parlato a Radio 24, a 2024, di Enrico Pagliarini. Finiscono infatti le pizze, le proiezioni diventeranno tutte digitali. Il proiezionista, una vita su in cabina, il mio mestiere da film, con questo proiezionista che ci racconta come appunto è finita un'epoca. Purtroppo non c'è tempo per altre segnalazioni, comprate i giornali oggi, sono pieni di notizie, di approfondimenti. Una buona domenica e un buon anno da Giulia Crivelli.